Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Esce e va subito ai vertici delle classifiche l'album di un rapper da platino, Hernia. Il disco si chiama Gemelli. I gemelli sono le varie sfaccettature del carattere mio, ma che poi sono in ognuno, no? Ci sono tante facce all'interno dello stesso disco, quindi non è gemelli un doppio, è un plurale. Ci sono anche tanti gemelli che hanno fatto questo disco con te, di solito appunto li chiamiamo featuring, ma la sensazione è qualcosa di più, cioè ci sono proprio degli incontri umani. Sì, su Puro Sinaloa io ho chiamato i miei amici quasi di sempre, cioè Tedua lo conosco dall'asilo, Mirko ci conosciamo da quando io ho 15 anni, quindi una decina di anni abbondanti, Lazza anche lui da quando siamo adolescenti, poi abbiamo Luque, Impensavo di ucciderti, Luque è un po' un mentore, un amico prima che un artista che stimo. Mi trovo molto con lui. Madame è un'altra artista che stimo moltissimo, più giovane di me, lei ha 18 anni, quindi è proprio fresca, come dire. E Fibra mi aveva chiamato nel suo cofanetto a ottobre, un artista al quale sono stato sempre paragonato, ma non so perché in realtà, perché io non mi rivedo. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare, ma poi mi ha scritto in poco tempo, forse io mi sento che forse un po' ti penso, Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa, noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico, e c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo, forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ora che fai? Mi hai fregato così non si era mai sentito. Io dentro la mia testa non ti ho mai invitata. Vorrei scappare che sei bella in... Però ti devo chiedere qualcosa sulle droghe, perché ogni tanto entrano nei pezzi. Sì. Ho aperto il disco su Spotify e c'è esplicito vicino a ogni titolo. Voglio sapere un po' qual è la tua visione, visto che nelle tracce ritornano. Sì, ritornano in realtà pochissimo. Forse in Puro Sinaloa c'è qualche citazione, però perché io non faccio uso, però ecco, nella musica, cioè, non saprei dirti, la droga esiste, cioè far finta che non esista è mettersi la mano davanti agli occhi, non parlarne, non farla presente, è veramente cercare di evitare un argomento che ti dà fastidio, capito? Penso sia esplicito più per le parolacce, ecco. E anche un po' per i riferimenti al sesso. Sì. Le donne sono, allora c'è un po' la visione da rapper delle donne, un po' la visione da romantico, perché il duro di fronte all'amore poi vabbè, va fuori di testa in più di un pezzo, e poi appunto c'è una tua collega donna, quindi le donne sono un universo piuttosto vario in questo disco. Beh, sicuramente, vabbè, Gemelli si chiama appunto anche per questo, quindi c'è una doppia faccia anche delle donne, però in realtà a me sembra di essere sempre stato molto corretto verso l'argomento donne, perché non ce l'ho nella vita reale, non ho la cosa... un po' macista, no? Io non c'ho quella visione lì, io non ho neanche, cioè anche nel mio parlato normale con amici io non ho alcuni appellativi negativi, non li uso, non c'è, comunque sai, mia madre fa l'insegnante per crescere mia sorella, quindi io sono cresciuto con due donne in casa e quindi non ho questa cosa qui, non mi manca. Mi hanno sparato in faccia e sono ancora vivo. Bene. Tu parti così, è una partenza forte in un album, dire così, quello il senso, no? Un'immagine forte, un'immagine violenta, tutti siamo stati sparati in faccia più o meno, no? Un po' dalla vita. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Hernia. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.